Vendo tutto di Matteo Caccia. Ogni giorno quando mi sveglio e vedo la mia casa sempre più vuota, mi domando se stia facendo la cosa giusta. Poi penso al motivo per cui tutto è iniziato e ne sono felice. Il punto è sempre quello: capire perché tutto è iniziato. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una maschera africana. Tutti noi viviamo con la paura di avere paura. Paura di esporsi, paura di dire quello che si pensa. Paura degli uomini, delle donne, delle guerre, della morte, delle malattie, della disoccupazione, delle bollette da pagare. Paura di ingrassare, di essere stupidi, di non capire una barzelletta, paura di fallire. Ecco perché questo spettacolo è dedicato a chi ha paura. Sono le 16:09, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il pezzo... Matteo Paccia? No. Matteo Caccia, sì, ma il pezzo che avete sentito è un estratto di un monologo di Steven Berkoff, di uno spettacolo di Steven Berkoff, monologo però che è presente anche, se vi capita, di essere a Milano in uno bellissimo spettacolo che si chiama Happy Family, che sarà in scena a maggio al Teatro dell'Elfo, ma che è anche sugli schermi cinematografici italiani, sempre con lo stesso nome, Happy Family, e non ne parlo solo perché Alessandro Genovese c'entra là e c'entra qua. Ne parlo perché sono un bello spettacolo e sono un bel film. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, l'ho già detto ma lo ripeto. Oggi si parla di paure, non so se l'avevate capito. Si parla di paure, ma soprattutto si parla del modo per esorcizzarle. Non sto parlando solo delle paure dell'uomo nero, di quando si è cattivi o di quello che si infila sotto il letto quando si è bimbi e non si ha il coraggio di andare a dormire la notte. No, sto parlando di quelle piccole paure per cui si inventano dei rituali scaramantici per esorcizzarle, no? Banalmente, se una sera gioca la vostra squadra del cuore, è una partita importante e voi avete tipo il patema d'animo, ho la sensazione che magari da settimane, da mesi o da anni abbiate istituito una specie di rituale grazie al quale vi sentite più tranquilli. Ecco, quello è un modo per esorcizzare le vostre paure. 800240024 349-238-6666 per tutti i rituali scaramantici che usate nella vostra vita per qualsiasi cosa che riguardi il lavoro, che riguardi l'amore, che riguardi lo sport, che riguardi... basta, sono queste le cose importanti della vita, no? In quest'ordine in ordine invertito. 800240024 oppure 349-238-6666 per i messaggi. Sul profilo Facebook del programma già mi scrive Sandro, un collega perché poi il problema è questo, che il rituale ha a che fare chiaramente con l'insanità mentale. Un collega si taglia sempre i capelli il giorno in cui l'Inter gioca la Champions. Direi che fino ad ora ha funzionato. 800240024 349-238-6666. Oggi vendo una maschera africana e a modo suo questa maschera africana, avete presente le maschere africane con le facce un po' brutte, insomma, che sembrano, per lo più sembrano cattive, però sono oggetti di grande valore. Oggi vendo una maschera di quel tipo con la quale si era instaurato un rapporto che aveva a che fare con la ritualità, per cui io poi ne parlerò meglio, però sì, di fatto parlavo a questa maschera e questa cosa mi aiutava. Ma qualsiasi tipo di rito, rituale scaramantico, che poi non è altro che un antidoto alle nostre paure, 800240 0024 oppure 349-238-6666. Poi ci sono chiaramente le superstizioni anche, per cui ad esempio Patrizia mi scrive: mai il pane capovolto a tavola. Mia bisnonna sembrava vedere dei mostri sul tavolo quando il pane era capovolto. Ho scoperto che nella cultura nuragica, quindi sarda, tutto ciò che era sotto sopra faceva parte del regno dei morti. Mettere il pane, che è il cibo per eccellenza, a capovolto significava chiamare i morti al banchetto. Maria Lucia, con mia nonna quando si parla di superstizioni è una guerra, guai ad appoggiare un cappello su un letto, mai a tavola in 13 e 17, oli e sali meglio che non caschino, mai mettere il letto con i piedi verso la porta. Queste hanno più a che fare con le superstizioni, noi oggi vogliamo invece sentire rituali scaramantici per sconfiggere le vostre paure. 800240024, abbiate il coraggio di farlo, so che non è facile ammettere i propri rituali. Dai, comincio io a farlo. Allora, ieri, tanto ormai lo sappiamo, inutile, ieri prima di guardare la partita io faccio una specie di giro intorno alla casa, c'ho un cortiletto, Laura è inutile che mi guardi con la faccia, c'ho un cortiletto davanti a casa e faccio un giro intorno alla casa a piedi nudi, non che abbia deciso di farlo, è che la prima volta che la mia squadra ha vinto in questa competizione io ero andato a buttare l'immondizia ed ero a piedi nudi. Da lì faccio un giro intorno alla casa a piedi nudi. Non è facile, ma fatelo anche voi. 800240024, i rituali scaramantici per sconfiggere le vostre paure. Torniamo alla mia maschera, la maschera africana che vendo oggi. È una bella maschera, andate a vederla. Radio24.it. Matteo Caccia, vendo tutto su Facebook. Oppure sentite la sua storia. Pronti? Via. La maschera africana. Maschera africana in ebano, provenienza Sudafrica, colori nero, marrone e giallo. Dimensioni, lunghezza 24 cm, larghezza 13 cm. Sconsigliata a chi fa brutti sogni la notte o chi si sente sempre osservato. Valore commerciale 65 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Superstizione è una parola che deriva dal latino. Superstizione, composta da super, cioè sopra, e stizio, stato. Nel significato originario indicava coloro che si rivolgevano alle divinità con delle preghiere, con dei voti oppure con dei sacrifici, perché in questo modo li serbassero superstiti, cioè sani e salvi. Il termine oggi viene usato come espressione di atteggiamento di semplice uso del soprannaturale con lo scopo di scamparla. Da questa definizione ho capito perché ogni mattina parlo con la mia maschera africana. È come perché se la vita mi stesse remando contro e io cercassi qualcuno che mi salvi. Ma chi in fondo non fa lo stesso, no? Quando ho comprato questa casa, questa maschera era già qui. Era la memoria storica delle mura, che erano state abitate da un musicista, appassionato dai ritmi del sud del mondo, e che era andato via frettolosamente. È un bel facciotto nero sta maschera, un po' faccioccone, ma serio. Arredava, quindi decisi di tenerla. È sempre rimasta lì. Anche se aveva quel fare un po' da padrone, che dopo qualche settimana mi sembrava già di essere ospite in casa mia. Quando mi decidi a toglierla dal muro per appenderci una bella stampa dell'IKEA, di quelle preincorniciate con la foto del ponte di Brooklyn, la maschera mi guardò storto. Ok, non è che veramente mi guardò storto, perché è pur sempre un pezzo di legno. Però forse sono stato io a guardarla per la prima volta davvero, da vicino. Quel viso pasciuto, gli occhi stretti, l'espressione seria, mi fecero capire che era meglio lasciarla dov'era. E poi avevo appena visto un film in cui un amuleto esotico uccideva un simpatico ragazzotto americano. Voglio dire, se il musicista non l'aveva spostata da lì, un motivo doveva esserci, no? La maschera rimase quindi dov'era, di fianco alla finestra della cucina, a fissarmi mentre facevo colazione, tutti i giorni. In fondo non volevo ridipingere le pareti e, come tutti sanno, quando non ridipingi le pareti ci sono delle ombre nere che impediscono di cambiare i quadri. La maschera avrebbe lasciato un'ombra nera che nemmeno la stampa dell'IKEA poteva coprire. Insomma, le mie azioni furono ancora una volta guidate da un misto di pigrizia e di paura. E quindi decisi di studiarla, questa maschera con cui dovevo convivere. Scoprì che arrivava dal Sudafrica, che era la faccia di un guerriero, e che capitava che le persone le chiedessero protezione. Tutto trovato in internet, ovviamente. L'unica informazione diretta me la diede un amico, Paolo, che una sera, arrivato per cena a casa mia, guardò la maschera e poi non disse più nulla per tutta la sera. Lui mi ascoltava, non volevo che si arrabbiasse, mi disse poi il giorno dopo. E così ho scoperto che Paolo era stato in Sudafrica e aveva riconosciuto in quella maschera una specie di divinità, potente e irritabile. La cosa diventava troppo complicata, per cui cominciai a parlarci. Con la maschera, intendo. Pensavo che se c'era del magico, potevo averne del vantaggio. Se invece fosse stato solo un pezzo di legno, vabbè, fa niente, tanto io parlo spesso da solo. Non mi aspettavo risposte durante le mie conversazioni, ovviamente, ma di certo il guerriero africano era uno che ascoltava senza interrompere. mi sentivo bene a chiacchierare con lui. Alla fin fine noi maschi parliamo poco di cose personali, no? Cioè, tra amici si raccontano un sacco di stupidaggini, sport, lavoro, però non si dice mai niente di veramente intimo, che è un bene, per carità, però ogni tanto bisogna anche capire qualcosa sulle proprie emozioni, penso, su quelle cose in cui le donne sono sempre più brave di noi. Non ho mai avuto fiducia nei confessori o negli psicologi, ecco perché mi ritrovai a ringraziare di poter avere una maschera di legno a cui confidare i miei segreti. Cominciai a confrontarmi col guerriero sui temi della vita quotidiana. Alla mattina commentavo quello che sentivo alla radio, ad esempio. Poi, pian piano, decisi di scendere verso questioni private, quelle più delicate come Giulia, ad esempio. Lo facevo di sera, quando il buio dava alla conversazione un minore senso di imbarazzo. Il guerriero non mi giudicava, era chiaro dalla sua espressione. Anzi, a volte sembrava bonario, con quel doppio mento di chi ha mangiato sempre un cucchiaio in più. Non gli ho mai dato un nome, perché a un'entità così potente un nome non si può dare. Ce l'ha, e non te lo dice. Lo sanno tutti che funziona così. Per anni ho realmente pensato che vegliasse su di me. Non ha fatto un gran lavoro, visti i casini in cui mi sono messo, ma se non ci fosse stato lui sarebbe stata sicuramente peggio. Col tempo siamo diventati quasi amici. Non è mai stato prodigo di consigli, però parlargli mi ha sempre chiarito le idee. Proprio come la sera in cui gli ho raccontato la fine della storia con Giulia. Lui aveva visto tutte le nostre litigate casalinghe, le aveva viste in diretta. Ma ovviamente non aveva mai detto nulla. Sai com'è quella gente che non dà consigli? Ti lascia fare i tuoi errori da te. Alla fine poi mi ha visto prendere la bottiglia col messaggio e ha sentito tutte le mie imprecazioni. Poi mi ha guardato abbrutirmi nel dispiacere per giorni, settimane, da quando ti ho raccontato di come mi sentivo. Lui, come al solito, è rimasto in silenzio, ad ascoltare. E in fondo è stato proprio mentre parlavo con la maschera che ho capito che Giulia, in fondo, aveva fatto bene. E che era ora di mettermi in pace con l'idea di costruire una famiglia, che sarebbe successo, forse, ma non con lei, non adesso. E che separarci era la cosa giusta da fare, per tutti e due. Sì, fu parlando con un pezzo di legno che ritrovai un po' di pace. Non nel lavoro, non nella famiglia, non negli amici. In un pezzo di ebano. Mi sembrava di essere Tom Hanks in Castaway. Avete presente quando, parlando con un pallone da pallavolo che chiama Wilson, decide che deve provare a scappare dall'isola deserta? Ecco, ora non ho più paura a staccarla dal muro, questa maschera. Siamo amici. E non devo fare sacrifici o preghiere. Sì, mi ci sono affezionato. È un po' il mio protettore. Ma io sono qui perché vendo tutto. Quindi, nonostante l'alone che lascerà, nonostante la stampa dell'IKEA e la sera in cui Giulia mi ha lasciato, io questa maschera la vendo. Il suo valore sul mercato sono 65 euro. La base d'asta qui, 99 centesimi. Per raccontarmi tutti i vostri rituali scaramantici, 80024 0024. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. 800240024 349-238-6666. Oggi si parla di paure e di antidoti per sconfiggerle. Prima però di farlo voglio leggere un messaggio che mi manda Abba, che è un nuovo papà. Dice: ciao Matteo, potresti salutare Gianluca, è un nuovo ascoltatore venuto al mondo ieri alle 20.05. Un saluto a Gianluca, che è venuto al mondo anche in una giornata particolare. Poi torniamo, perché come dicevamo prima, i riti scaramantici hanno a che fare chiaramente con l'insanità mentale, per cui rigore contro: mi metto in mezzo ad una porta di casa, spalle alla TV, in posizione da portiere, con braccia larghe in alto. Spesso ha funzionato, Frankie, già se spesso e non sempre vuol dire che non funziona. Io, quando stavo cominciando la mia attuale e duratura storia d'amore, ascoltavo Compagni di viaggio di De Gregori e poi la chiamavo. Mi ha portato bene. Igor: incrocio tutte e 10 le dita delle mani accavallandole le una sulle altre quando la Ferrari parte per un gran premio. L'ultimo gran premio non è servito. Alfa Paolo: per esorcizzare la mia paura mi sono fatto tatuare sotto il bicipite sinistro, dove posso leggerla quando mi serve, la scritta Never Back Down, non mollare mai. Luca da Modena. 80024 0024, però, perché ci sono persone che hanno avuto veramente a che fare con la paura, direi con la paura vera, e hanno anche lì trovato un modo per scongiurarla. Luca da Tortona, pronto? Pronto, eccomi. Ciao Luca, come va? Tutto bene, tutto bene. Senti, qui non si parla di paura per una squadra di calcio o perché la fidanzata non ti chiama, giusto nel tuo caso? Giusto, giusto. Mi è capitato quando ero nell'esercito. Sono stato a Sarajevo a fare la missione e una volta in un trambusto, mentre ci hanno sparato due colpi, mi è caduta la cicca, mi è caduta in mano. E poi mi stava scivolando il fucile e si è incollato alla cicca. e quindi non ho perso il fucile. Allora tutte le volte che uscivo in pattuglia masticavo la cicca, la incollavo sotto il culo del fucile dove c'è l'impugnatura per così, per scaramanzia. Era andata bene una volta, poi è sempre andata bene. Beh, direi che se siamo qui a parlarne è funzionato, quindi. Esatto. Senti, cosa facevi esattamente? In che corpo? No, io lavoravo, ero negli Alpini, ero un artigliere da montagna. Poi lavoravo in cucina, però poi le guardie esterne, i servizi, le guardie alla base le facevamo tutti quanti. Certo. Quindi facevi poi i controlli, le pattuglie, quelle cose lì. Quindi, ecco. Scusami Luca, cioè sì. Tu lavoravi in cucina e sì. Poi però uscivi e ti sparavano contro. Sì. Quindi, sì, non sempre. No, però è capitato. Qualche volta è successo. Ecco. Ok, senti, adesso cosa fai Luca? No, faccio l'operaio, faccio la manutenzione in una ditta di plastica. Senti, la cosa della gomma da masticare la usi ancora per qualcos'altro? Tipo... La uso sì, quando io faccio il volontario di protezione civile, nei momenti un po' più critici, la uso o la metto sotto qualcosa oppure la mastico e poi me la attacco sotto il tallone della scarpa. Luca, grazie mille, buona giornata. Grazie anche a te, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Al volo andiamo a Monza da Dario. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, senti? Buongiorno Dario, io ti sento. Senti, tu soffri di una roba strana. Allora, le paure sono due. Diciamo che al centralino ho detto solo una. Quella che ho detto è la cumponofobia. Scusami, cumponofobia? Cumponofobia, che è l'inquietudine, diciamo. Non è una vera e propria paura, è più che altro inquietudine nei confronti dei bottoni. Ah, e da cosa arriva, Dario? Ma, allora, diciamo che è già tanto aver scoperto il nome. Beh, sì, infatti mi sembra... In realtà non è che c'è proprio una vera e propria spiegazione sì. A cos'è che deriva, perché non è una paura che non ti lascia vivere. Certo. Però ti dà fastidio i bottoni. Ma ti dà fastidio cosa? Allacciarli, chiuderli, guardarli? Esatto, chiuderli, tipo i vestiti... Non riesco a usare vestiti con i bottoni, cioè preferisco usare cose a zip. Senti, e cosa fai per combattere questa paura, Dario? Allora, cioè, inizialmente cerco di non comprarli, se poi ce li ho, vabbè, è una cosa che cerco di superare. Ok. E la seconda paura, invece, è questa da quando proprio ero piccolo, la paura nelle piscine affollate di essere affogato. È presente i giochi che fanno i bambini? Sì, ok. E lì per sconfiggere cosa fai? Non vai in piscina, le piscine affollate? Io mi ricordo che quando ero piccolo c'erano i bambini che giocavano e non entravo in acqua. Sì. Perché avevo proprio questa paura di essere di affogare. Guarda Dario, io però ti devo ringraziare perché oggi ho imparato cos'è, ho imparato che esiste la paura dei bottoni che si chiama cumponofobia. Grazie mille. Ciao Dario, buona giornata. Ciao. Rimaniamo in zona, Milano da Alessandra, pronto? Ciao, Alessandra. Ciao Alessandra, sono Matteo. Così abbiamo fatto... Allora, il mio rito per sconfiggere le paure delle persone che ti portano un po' di ironia, antipatiche, sì. Preparo una ciotola con 7 limoni e 7 peperoncini freschi, rossi, e i peperoncini devono toccare il limone. Questo è un rito che mi ha insegnato una vecchietta tanti anni fa in montagna, e niente, si tiene in casa. Ok, ma quindi era una roba sua della vecchietta o ha qualche provenienza antica? Non lo sai. Ma penso che abbia una provenienza sicuramente antica. O ci piace pensare così, Alessandra. Grazie mille. Servita. Grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo al volo, provincia di Pavia. Mauro. Ciao. Ciao Mauro. Ciao. Senti, tu cosa fai? Io vendo articoli funebri. Sì. E i miei clienti qualche volta mi prendono anche queste barrette portachiavi che c'è sopra scritto, che ne so, prima o poi sarò tua. Ok, quindi prendimi robe del genere. Ma queste servono per avere paura o per sconfiggerla? Ma io quando vado, magari che esco con gli amici in compagnia, cosa faccio? Ne porto sempre un po', le metto in tavola, poi qualcuno la prende. Qualcuno non la prende. La usano un po' come vogliono. Mauro, grazie, buona giornata. Prego, ciao, alla prossima. Ciao. L'ultima purtroppo, andiamo ad Arezzo, provincia di Arezzo, da Lorenzo. Pronto? Lorenzo? Pronto? Sì, ci sei, io ci sono. Sì, senti, sai, ciao, buongiorno. Prima della trasmissione sui riti scaramantici, cosa hai fatto tu? I riti scaramantici, sì, ho visto... I campionati del mondo, mi sono promozionato, nel 1982, siccome era andata bene la prima partita, sì. L'avevo vista sul radiatore, che tocca a ferro, sì. Tutti i campionati del mondo attaccato a un radiatore. Cioè hai visto tutti i campionati del mondo del 1982 seduto sul radiatore, è un calorifero. Un calorifero, esatto. Ma spero fosse spento perché era luglio. Ovviamente. Però tutti sul calorifero. Lorenzo, no, in modo particolare perché aveva portato bene la prima partita. Bravissimo, fai così, fallo anche per i prossimi di quest'anno, va. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao. Era un po' emozionato Lorenzo. Io ringrazio però lui, ringrazio la Faggin, Tiziano Bonini, il Genovesi, Stefano D'Andrea e Paulino Corleoni. La maschera è sul sito come al solito, domani invece vendo una carta prepagata per scaricare musica. Voi non credete nelle superstizioni, che alla fine una maschera è solo una maschera. Love, love, love, love.